Roma Trastevere, 27 febbraio 1974. Care Eleuterio, la cameretta che ascoltò le giovanili confidenze mie e di mia sorellina oggi ascolta le nostre parole amare, punteggiate di tristezza. La nostra ultima lite ha molto scosso anche mia sorellina, che è sull'orlo del collasso. Dal cortile mi giungono i rumori del mattino e io penso che il cortile è il risultato della maleducazione di quattro case che si voltano le spalle. Quello che penso di te è inutile dirlo. Comunque la ristrutturazione dell'economia interna è indispensabile in questo momento, sempre tua. Roma Parioli, 28 febbraio 1974. Incrollabile, sempre mia. Mi dispiace che tua sorellina sia sull'orlo del collasso. Ad ogni modo, pregala di fare ancora un passettino in avanti. Sì, hai ragione, sono uno stupido. Uno che ha un amico farmacista che vende cianuro e un amico pasticcere che potrebbe imbottire di cianuro cioccolatini e dolcetti vari da offrire a te e a tua sorellina e non approfitta dell'occasione, non può essere che uno stupido. Eleuterio, ho scritto. Ho letto che abbondanti nevicate hanno bloccato alcune strade statali. Quello spazzaneve di tua sorella, quando si decide a lavorare un po' per riattivare il traffico? Roma Trastevere, 1 marzo 1974. Care Eleuterio, semigatto, mia sorellina non è uno spazzaneve e smettila, comincio a pensare che tu ce l'abbia con lei. Non le ho fatto leggere la tua lettera per non turbare la sua vena creativa. Sta dipingendo una natura morta, un insieme bellissimo di pere, mele e banane. Ci ha messo anche mezza anguria. E io penso, l'anguria, un ortolano croupier ha avvoltolato il tappeto verde lasciando dentro le rouge et le noix. Penso anche che ti dovrai adattare al nuovo sistema di economia interna, perché mia sorellina dice che spendiamo troppo, sempre tu. Roma Parioli, 2 marzo 1974. Inesplicabile, sempre mia. La tua mancanza si fa sentire. Non posso fare a meno di te, specialmente di notte. Soffro di singhiozzo e quando tu sei qui basta che io ti guardi un attimo mentre dormi e il singhiozzo passa immediatamente. Quando non ci sei non ho di che spaventarmi. Torna, non sto bene, da un paio di giorni sudo continuamente. Eleuterio, ho scritto. La portinaia dice che non sono ammalato, dice che quando uno si vuole cambiare la maglietta di lana deve prima togliersi quella che ha già addosso. Roma Parioli, 3 marzo 1974. Care Eleuterio, micione, ti scrivo dalla casa nella quale sei rimasto per qualche giorno solo, ma dove non sarai più solo perché adesso ci sono anch'io, che sono sola in quanto tu sei momentaneamente assente, ma quando tornerai ci saremo tutte e due e nessuno di noi sarà più solo. Ho rimesso un po' d'ordine e per festeggiare il mio ritorno ti ho preparato l'ananas al kirsch, che a me piace tanto e a te no. Io penso che l'ananas è una pigna straniera che si pettina come gli tre toni. Penso anche alla nostra ultima lite ed è proprio come se la rivivessi. Tu, come al solito, hai incominciato a urlare come un pazzo. Dove sono andati a finire i soldi che erano nel cassetto della scrivania? 712.000 lire, Eleuterio. Esattamente. Io non li ho presi, li ho solo contati e li ho dati a mia sorellina a titolo di deposito cauzionale. Non ho capito. Ti spiego. Siccome abbiamo deciso di ridimensionare le spese superflue in questa casa, mia sorellina e io abbiamo deciso alcune leggi alle quali ti devi attenere. Se sbagli, multa da prelevare dal deposito cauzionale. E io adesso ne faccio un altro di deposito cauzionale. Da un amico mio che si occupa di pompe funebri. Poi strozzo te, tua sorellina, vado all'estero e dal deposito cauzionale il mio amico preleverà quello che serve per i festeggiamenti funebri. Dov'è la bottiglia di whisky? L'idea mi affascina, e voglio brindare. La bottiglia di whisky l'ho nascosta io. Ecco, questa è la tessera settimanale, 2 bicchierini a settimana. E chi l'ha deciso che devo bere solo 2 bicchierini di whisky alla settimana? Noi, ma tu ne puoi bere anche 20. 2 whisky settimanali rappresentano la razione che ti spetta in rapporto al nostro bilancio. Ma se vuoi bere di più, ogni whisky 1000 lire da prelevare dal deposito pensionale. Senti, tira fuori il whisky. Se no metti scena la Giovanna d'Arco, magari solo il finale, tu protagonista e io quello che accendo il rogo. E Luterio, smettila di minacciare e adeguati alla situazione. E levati subito le scarpe. Mi devo levare le scarpe? Ma tu devi essere tutta scema. O ti levi le scarpe o prelevo la multa di 100.000 lire. Oggi è giorno festivo, Eleuterio, si circola a piedi o con mezzi pubblici. Quindi, siccome non esistono scarpe pubbliche, devi girare per casa a piedi, nudi. E va bene, adesso io mi levo le scarpe, però tu devi chiamare quella specie di organo ammantice di tua sorella e farla venire qui. Così con una scarpa sistemo la testa a te e con l'altra quella di tua sorella. Poi, finalmente felice, metto un disco della premiata Forneria Marconi. Non puoi, Eleuterio, la musica leggera ti spetta 2 volte al mese. Durante gli altri giorni, se vuoi, puoi ascoltare l'inno nazionale o l'Ave Maria di Uno. In caso contrario, multa da prelevare sul deposito cauzionale, lo so. Allora adesso io vado in Trastevere con 2 facchini, scarico dalla finestra tua sorella, scendo giù, faccio ricoprire la voragine che avrà aperto cadendo, poi torno a casa e guardo che faccio. Eleuterio, posa quella palla di ferro. Questa non è una palla di ferro, è una bomba a mano. Si strappa questo coso, si conta fino a 7 e si lancia. Indovina un po' dove la lancerò. Eleuterio, perché guardi proprio me? Perché sì, rimetti a posto i soldi, il whisky, i dischi, tutto, sbrigati. Io comincio a contare. 1, 2, dinami 3, tanto, Pietro, 4. Ricordo tutto, come se la rivivessi, la nostra ultima lite. Ma quando rientrerai, come sempre, farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Avremmo pensato di attuare lo svecchiamento graduale della tua libreria, con particolare riguardo a...